Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Eccoci qua, buonasera, buonasera da Agostino Spolaore, buonasera da Blu Radio Veneto. Questa è una serata importantissima per il Scrittore Scritto, perché ha l'onore e il piacere di avere in studio una carissima amica prima di tutto, ma una splendida artista, ne parleremo tra qualche istante. Comunque non è ancora arrivato il mio fedele compagno, questa sera però ne ho un altro altrettanto valido, ci mancherebbe altro, e lo saluto caramente, cioè ciao Gilles. Ciao Agostino, ciao a tutti. Provvisoriamente, magari mi presentavi come Maurizio, faceva anche una gran bella figura. E comunque Maurizio è in arrivo, insomma, a causa motivi di lavoro è ritardato un po', insomma, il traffico, i treni, insomma, sapete un po' com'è. Comunque sta arrivando e poi sarà anche lui con noi in questa carrellata di musica d'autore, io la chiamo, di voce splendida. Insomma, c'è Lori Greco. Ciao Lori, ben... Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Ben arrivata a Blu Radio Veneto da quel di Perth, se non sbaglio. Sì, in Australia, se le gente non sanno. Un lungo viaggio. Prima di cominciare con lei, comunque i soliti nostri dati tecnici, se volete mandarci qualche sms, vi ricordo il nostro numero telefonico è il 346 23 20 033. E appunto per anche fare qualche domanda, Lori, tu sei disponibile, insomma, a rispondere, sì. Se ti fanno qualche qualcosa, anche se qualcuno ti chiede anche di andare a suonare, perché no? Oh, adesso mi fai proprio... Magari qualcuno ti invita a qualche festa, qualche serata. Queste mi piacerebbe molto. Qui in Italia, sì. Magari, insomma, ma anche nel mondo. Sì, nel mondo, ma in Italia in principio. Per primo. E poi ancora il nostro numero in studio è lo 049-875-6423. Le nostre frequenze sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Il nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it, lì ci potete ascoltare tranquillamente, standone a casa, davanti al PC, magari mentre lavorate, ma potete ascoltare la radio 24 ore su 24, semplicemente cliccando dove c'è scritto ascolta la radio, e quindi ci potete ascoltare in streaming. E poi se volete navigare all'interno del nostro sito troverete tutte le informazioni necessarie e possibili per quanto riguarda la nostra regione, ma non solo, e poi ovviamente tutto quello che è musica e ancora musica, novità, live, eccetera. Troverete i podcast, troverete di tutto e di più per chi volesse seguirci anche in altre, come dire, situazioni, insomma, ecco. I live, lo sapete, c'è quasi tutte le sere, insomma, da lunedì al giovedì, e anche questa sera non poteva essere diversamente, e quindi di nuovo in studio con questa carissima amica Lori. Intanto ti volevo ringraziare veramente di cuore di aver accettato l'invito ad essere qui questa sera. Ti ringrazio a te che l'hai fatto in 5 minuti. Ci conosciamo su Facebook e sono qui. Sì, è vero, è nata proprio così la nostra amicizia. Io l'ho scoperta per caso grazie alla nostra amica, mm-hmm. Che magari ci sta ascoltando, la saluto caramente, la Tiffy. Sì. Io poi ho contattato Lori, ci siamo cambiati in amicizia, fammi sentire qualcosa di tuo, mi hai mandato i pezzi, vieni in Italia, sì, allora ti voglio in radio. Eh sì, sono qui, mi sembravo tanto tempo fa, ma adesso... Hai visto? È ottobre. È già ottobre, esatto. E comunque, insomma, io sono stato veramente molto felice del tuo sì nel venire qui in questa serata, perché hai una voce splendida. Grazie. E quindi è giusto fare ascoltare anche la tua musica australiana, ma tu sei di origine italiana. Sì, nato a Napoli, sono napoletana, per tutti i napoletani che sentono la musica stasera, ti rongono baci e ti saluto a tutti. Ti ricordi ancora quella che è la tua lingua madre? Quello mi venne più facilissimo, perché mamma e papà parlavano sempre napoletana a casa e... Per parlare in italiano si deve pensare, e io non ho fatto mai la scuola di parlare in italiano, allora quelle che prendo in Italia quando ascolto la RAI è poco a poco, penso che mi spiego. Certo. Gilles, vai pure. Sì, quindi si ritorna in Italia, Lori, per motivi familiari, perché c'è un legame sempre forte con la famiglia in Italia, ma anche per questioni professionali. Sì, quest'anno non tanti professionali, perché le prime due volte, era 4 anni fa, avevo un'amicizia con un impresario in Cagliari e ho fatto in concerti e video e clip a Cagliari, ma adesso è finito tutto lì, ma speriamo di trovare un'altra via di fare ascoltare la mia musica. Quindi per inserirsi un attimino anche sul, un attimino anche di più logicamente, sul mercato italiano. Sì, mi piacerebbe. Dopo ascoltiamo due canzoni che ho scritto in italiano e parleremo di quello. Non sei sola questa sera, ti sei fatta accompagnare da Eric. Da Eric, mio marito, sta qua. Puoi dire ciao a tutti. Buonasera a tutti. Eccomi in Italia un'altra volta, che mi piace molto a me. Ma sei un musicista anche tu, Eric? Un musicista, io sono. Per me la musica è una hobby, part-time. Mm. Part-time. Quindi tu suoni la chitarra, ma sì, così per hobby, insomma. Per hobby, ma ho suonato con mia moglie e anche cantato in questo... E il prossimo disco? Mm-hmm. Ah, che bello! Eh sì, sempre in famiglia. Si tutti fa. Famiglia. Così si risparmia, vero? Sì. Non mi paga niente la... E nessuno paga a me, scusa. Ma io sono curioso, Eric, ma è così difficile lavorare con Lori? No, no, no, no. Sì. È facilissimo. È facilissimo. Un onore per me. Oh, come sei bravo, Mario! Ti un bacio. Va bene, Lori, io direi di fare subito ascoltare qualcosa di tuo, poi ritorniamo in studio. Sì, ok. E Lori questa sera presenterà il disco nuovo che sta per uscire, o meglio lo sta definendo, insomma, diciamo, sì, sì, ci stai lavorando, ecco. Però sì, abbiamo questa esclusiva, quindi anche per i tuoi fans, questa sera avranno modo di sentire 3 canzoni nuove, mm-hmm, e che sentiremo appunto in prospettiva futura per il disco che uscirà. Sì. Però io ti ho scoperto con Waiting. Sì. Che trovo un disco splendido, mi è grazie, piaciuto subito, secondo me questo è un disco che tanta gente che ama la musica romantica, dolce, bella, insomma, dovrebbe avere, perché ci sono dei pezzi bellissimi come, grazie, come Every Time, come, non dico quella perché poi quella me la farai, sì, che io adoro da matti, mi è piaciuta subito, ma intanto adesso ci ascoltiamo la traccia numero 11, sì, abbiamo scelto, mm-hmm, Latin Lullaby. Ok. She met her love. Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Allora Lori, ci sei? Sì. Hai visto chi è arrivato adesso? Sì, abbiamo... ciao Maurizio. Buonasera Lori, buonasera al tuo partner musicale. Marito. Marito, anche marito. Partner e marito, chiaramente. Ecco. E marito. Buonasera anche a te. Enrico, benissimo. Maurizio, sì, dimmi. Sei perdonato, sappiamo tutto. Ho avuto un momento di ritardo. Il lavoro è lavoro, c'è niente da fare. Due tre orette di ritardo, sono le cose della vita. Sì. In ogni caso sono arrivato sempre in tempo per presentare Lori, per parlare della musica di Lori, per parlare delle sue evoluzioni musicali, mm-hmm. del tuo concetto di musica, mm-hmm. come hai creato, come hai sviluppato. Questo era doveva essere un demo, vero? No. Quale? Waiting. Waiting, parlo di Waiting. Doveva essere un album a 7-8 pezzi, poi è diventato un album vero e proprio. L'idea era quella? No, l'idea era per fare qualcosa per rimanere i miei figli, solo per soddisfare solo per soddisfare te, praticamente. Però ho visto... Poi è diventato un album vero e proprio. Lo devo fare in la mia vita, in una vita di un artista si deve fare almeno una volta, ma però adesso abbiamo qualcosa nel mio, ho qualcosa nel mio sangue, facciamo un altro, non so, spero che, non so, che va sempre, lo devo fare sempre adesso, perché è una cosa meravigliosa di registrare i brani che hai scritto. Io scrivo tutta la musica e tutti... Sono tutti i tuoi testi, sì, vero? Tutta sì, musica tutto. E testi. Il tuo marito arrangia i pezzi, cosa fai? No, lui... Enrico, cosa fai te? Io suono un po' di chitarra, come ho detto prima, è una hobby per me, non sono un professionista, okay. Io lavoro per cosa sai, ma mi piace suonare la chitarra e ho suonato un paio di canzoni su questo disco, ma... Ma lui ha sempre le prime orecchie che ascoltano, sì, la nuovissima canzone. Lui dice: no, quello non mi piace, cambia qua, cambia qua. È giusto, giustamente, sì. Lui sente se sono delle cose che non vanno e ti dice: secondo me, sì, dovresti cambiare, quindi sì, cambi. Sì, qualche volta. Sì, sì. Sempre cambi, sempre. Ricordiamo, sì, che Lori, tu scrivi la musica, scrivi le parole, mm-hmm. canti, fai tutto tu. Per quello... Sì, faccio anche le voci. Anche la doppia voce? Sì, sì, faccio tutto, sono la boss. No, mi piace perché io piace di sentire tanto musica. Quando ascolto la mia musica, spero che senti che non è semplice. C'è tanto che, non solo con gli strumenti, ma anche con gli arrangiamenti e le corde, che non sono semplici. Però tu usi una voce splendida. Grazie. Io ti sento in qualche disco, così, in qualche canzone, anche in qualche video. C'è Every Time, per esempio, lì, sì, che sì, mentre sei al pianoforte, che suoni nel, sì, video, sì, di YouTube. Sì, sì. Splendida quella canzone. Grazie, grazie. E poi il bidet, insomma, non ne parliamo. Poi, sì, lo so. Allora, Lori, quanto ci hai, diciamo, messo per fare Waiting? Waiting? Perché il titolo dice aspettando. E adesso mi fa aspettare anche di più per il nuovo, il nuovo CD, non so. Allora, io ho scritto Waiting perché lo volevo fare. Il titolo perché era una cosa che aspettava in mia vita di farlo. Mm-hmm. Allora, scusa, ho dimenticato quello. Ho andato in un'altra via. No, quanto ci hai messo a fare? Quanto ci hai messo? Diciamo 5-6 mesi. E mi ricordo nel periodo di Natale mi sono messa in studio, che era a casa mia, per 2 settimane intero. Non ho visto i miei figli, mio marito, e è andata a cantare. E basta. Oh, Madonna, sì. Molto lungo, ma però ce l'ho fatto. Tu abiti a Perth? Sì. E Perth, lo sai che cos'è Perth? Perth è un luogo molto di rock in Australia, visto che vengono fuori Three Field da Perth e, sì, altri, sì, gruppi rock molto importanti. Sì, sì. Vedi che tuo marito lo sa. Sì. Three Field le conosco. Sì, conosci, sì. Three Field, un gruppo molto bravo, sì, molto interessante, che ha anche fatto successo in Europa, prima, però è partito dall'Australia, assolutamente dall'Australia. Anche i Church, c'è un altro gruppo famoso in Australia. Ma Church sono dell'altra parte. Ah, dell'altra parte, ho capito. In Excess? In Excess, in Excess hanno spopolato mondialmente, sì, in Excess. Però noi rockettari amiamo molto i Church e i Three Feet, capito? Sì. I Three Feet sono della vostra parte, di Perth, sicuramente. Sì, sì. Esatto. Sì, la nostra città è famosa, i nostri ali per i giovanissimi band, esattamente, band, proprio, proprio il centro, il culto delle giovani band australiane. Sì, sì, c'era anche un altro gruppo, gli Azzurro, ma molti anni fa, moltissimi anni fa, gli Uduguru si chiamavano, ti ricordi? Uduguru, molto famosi anche quelli, sì. rock piacevole, rock beat. Sì, sì. Sei, ti vedo informato, Maurizio. Ma io amo il rock australiano. Noi quando negli anni trascorsi, caro Agostino, vuol dire noi siamo rock and roll. Siamo rock and roll. Poi più rock and roll di te, hai la maglietta di Jimi. Chiaramente, meglio di così. Grande... Ho notato immediatamente che avevi la maglietta di Jimi Hendrix. È un grande, grande, grande. Sì. Jimi era immenso in ogni caso. Ma io non sono rock and roll. No. Non importa. Le chiavi di lettura della musica non hanno confini. No. Tu ami Barbara Streisand, ami Elton John. Sì. Perché Elton John ami Elton John? È perché quando ho cominciato a suonare il pianoforte di età di 7 anni, allora, verso quando avevo 12 anni, ho ascoltato la musica popolare. C'era questo Elton John che faceva le brani che io amavo. E allora, quelle erano le prime canzoni che io... Hai cominciato a suonare e sentito Elton John. Sì, sì. Lo sai che Elton John ha fatto un grande disco famosissimo live in Australia, lo ricordate? Quello doppio famoso dal vivo che ha avuto un grande successo, è proprio partito dall'Australia. Sì. Disco della sua discografia, uno dei più importanti come live, anzi il più bello dicono come live che lui ha fatto, partito dall'Australia. Sì. Assolutamente. Vedi. Ma in generale, Lori, volevo chiederti com'è la situazione musicale lì in Australia? Per me, per te, allora, sì. Io ti dico la verità, devi essere giovani, la musica rock va in tutti i locali, per mia musica è più difficile perché, non so perché, per così va, perché amano tutta la rock band, verità. Allora, perciò io vengo in Italia, ho tanti fans in America e così, mi va bene, so ok. La gente... In Italia l'ascolta più perché la gente in Italia piacciono a me la melodia, bellissime melodie. Esatto, a me la melodia è quello il discorso. E sono molti, come si dice, mannaggia, non mi ricordo la parola, gentile e con rispetto. Si siedono e sentono, ascoltano, sì, ascoltano. Ok. Vabbè, adesso però noi vogliamo ascoltare Lori. Ascoltiamo anche noi adesso. Adesso ci fai qualcosa dal vivo, Lori. Ok, dal vivo. Questo lo faccio per te, perché come ho detto, canta sempre con i bei basi o con altri musicisti che... Allora, questa canzone che si chiama Get Here, non l'ho scritto io, ma però è una canzone che ogni tanto che io l'ascolta mi ferma, perché per me è una dei più bellissime canzoni che è stato scritto, registrata di una cantante americana che si chiama Olita Adams, scritta da Leon Russell. Ah, Leon Russell, grandissimo musicista, Medley Chris, sì. quello che ha fatto quel famoso disco con Joe Cocker, sì. Esattamente. Storico disco di Joe Cocker, sì, Leon Russell, sì. Grandissimo pianista, straordinario pianista, che ha fatto un disco di Elton John l'anno scorso, lo sai, no? No. Ha inciso un disco l'anno scorso con Elton John, sì. Un duetto hanno fatto. Vedi. L'anno scorso, sì. Okay. Rio Rassi, grandissimo, un musicista straordinario. Certo. Vabbè, voi quella capigliatura folta bianca. Ancora i capelli lunghi ce l'ha. I capelli, una volta aveva i capelli, era famoso per i suoi capelli lunghi bianchi. È straordinario, un musicista straordinario. Lori, are you ready? Sì. One moment. Like an Arab man, I don't don't care how you get here, just get here if you can. You can reach me by sailboat, climb a tree and swing rope to rope. Take a sled and slide down the slope into these arms of mine. You can jump on a speed entrati nel mondo di Lori Greco, della sua splendida voce. Che dire, io mi emoziono a sentirti, sono sincero. Grazie, grazie. Anche io mi emoziono quando canti. È una bellissima cosa di fare, se puoi cantare o non se puoi cantare. Certo. Io dico, quando qualcuno mi chiedeva ma chi è questa Lori Greco, insomma, che genere di musica fa, te lo giuro, ho risposto a tutti: se tu chiudi gli occhi, sembra Barbara Streisand. Grazie, un onore, quella è fantastica per me, sì, grazie. Quello è la tipologia che ti ha inquadrato. Senti, c'hai già un commento da parte di Antonio, dice: emozionante, aria dei miei vecchi tempi, mi rivedo giovane, complimenti, brava. Grazie, ciao Antonio, un bacione. E musicalmente hai interpretato un pezzo con un certo pathos, con un certo trasporto, è così, Lori? Con un certo trasporto, un certo pathos. Cioè... Pathos, sì. Sì, queste canzoni più lenti... Li senti dentro praticamente. Sì. Mi fanno sempre andare in un altro posto. Esattamente. Avevi detto che questo è un pezzo di un altro artista, no? Come l'hai arrangiato questo pezzo? Come l'hai fatto tuo praticamente? Ho ascoltato sulla radio, sull'internet e l'ho fatto. Hai fatto qualche nota? Sì, e poi l'hai sviluppato praticamente. L'ho fatto per me, sì. Ho capito. Mm. Sempre nello studio di Perf hai fatto tutto quanto in casa tua? No, questo? Questo l'ho fatto a casa. No, hai fatto a casa? Tu. Sì, sì. Cioè, non c'è sul mio. Sì, è una novità. Sì, esattamente, è fuori dal disco. Però sì. Certi i pezzi li hai scritti casa e poi li hai sviluppati nello studio sempre a casa? No, come è stato? Sempre a casa, l'ho scritto a casa, l'ho portato a studio, senti così, bla bla bla bla, l'abbiamo registrato. E l'avete registrato. Sì. Ho letto che il disco è stato fatto in 5-6 mesi, vero? Sì. Così? Sì, il primo, sì, Waiting, parlo di Waiting. Oh, ok, sì. 5-6 mesi. Sì, ma adesso sappiamo, adesso c'è uno nuovo. Sì, ma sappiamo davvero come si deve fare un CD e ci impegniamo tanto tempo. Ci avete imparato praticamente. Sì, si deve fare di migliore, sì. Sì, ho capito. Sì. Bene. Allora, io devo salutare delle due care persone che mi hanno ospitato domenica scorsa, faccio anche un po' di pubblicità che non guasta, penso, per loro, ma è la verità, insomma, perché si meritano questo, cioè Paolo e Monica del ristorante Piper di Onè di Fonte, che mi hanno ospitato domenica scorsa a pranzo e ti stanno ascoltando e ti fanno i complimenti. Grazie. Un saluto a loro e a tutti gli avventori, insomma, gli avventori del locale in questo momento che stanno magari degustando la loro cucina. Sì. Un po' lontano da qua, se no ti avrei portato, Lori. La prossima volta magari sì, di giorno facciamo un salto e andiamo a mangiare da loro. Sì. Ciao Paolo, ciao Monica, grazie ancora per domenica. E poi ancora c'è un altro messaggio da parte di Annalisa Fornasari, dice davvero emozionante. Grazie, hai ragione. Grazie Annalisa, non ti scorderai, se siete su Facebook, venite alla mia pagina. Per dire, come si dice in italiano, mi piace, mettete, puoi ascoltare la mia musica anche lì. Ecco, quindi se qualcuno ti volesse trovare su Facebook, basta che digiti Lori Greco, mette il mi piace sulla tua pagina oppure ti scrive anche nella tua pagina. Sì, ho due pagine. Una di musica e una di personale. Nella recensione abbiamo scritto che tu hai tre correnti di pensiero musicale. Passi dalla musica romantica, melodica, al jazz, hai qualche riferimento jazz, dezzato. Un po'. Come mai questo amore per il jazz? Non lo so, quando hai un amore per qualcosa, chi non lo sa, non so dove vieni, ma dove proviene praticamente. Sì, non ti posso dire perché anche c'è... non c'era la musica jazz a casa, io forse... Però ti sei stata, ti è appassionato. Sì, c'era sempre la musica classica, che mio padre suonava sempre gli orchestra di Mozart, di Beethoven, certo, io ho andato al conservatorio di studio, ho fatto sempre la musica classica, ma però... ho cominciato a fare piano e bar e allora penso di là si è sviluppato il discorso, anche c'è del rhythm and blues nella tua musica. Come mai ami il rhythm and blues? Non lo so. Lo sai? Sì, ma quelle sono le genre, diciamo, giornali. I giornali che scrivono così, però c'è qualcosa, qualche riferimento c'è nella tua musica. Cioè, i giornali hanno scritto, i critici hanno scritto un po' di country, un po' di rhythm blues, un po' di musica romantica, un po' di listening, cioè musica di ascolto facile, non nel senso riduttivo, di ascolto bello, positivo. Sì, questo hanno scritto i giornali, i critici. Sì, grazie, quella è la verità. Io scrivo quello che mi piace a me. Ti dico che a mio marito è sempre blues e rock and roll. Mi pare giusto che sia così. Sì, ma io non lo so. Non so suonare. No, non sono brava di fare. Non prendo, allora io no e mi lascio fuori. Sono lui e lascio stare. Okay. Ma lui ti influenza qualche volta in qualche sound, in qualche canzone? Forse sì, perché io lavoro sempre con io stesso. Sì. E vai sempre la stessa linea, la stessa strada. Esatto, direzione. Allora lui dice, ma perché non andiamo giusto di là? Ok, sì. Ma è giusto che qualcuno possa indicare qualche via diversa. Sì, un giorno voglio lavorare con un altro a scrivere. Sì, perché... No, scusa marito, ti amo, ti voglio bene. Un altro cantautore. Vuoi avere un'altra visione delle cose? Sì. Devo aprire la porta e lavorare con un altro. Ma ha partecipato anche dal punto di vista della scrittura ai pezzi? Un pezzo l'ha scritto lui, vero? Sì. Fire è molto cezzato. Come mai hai deciso di portarla verso quegli orizzonti, Henry? Anche io ho cresciuto con Jimi Hendrix, Eric Clapton, Deep Purple, ma anche in questi tempi che sentivo questi musicisti, io amavo Frank Sinatra, Nat King Cole. Quindi i Croner, le belle voci praticamente. E mi entravano nel testa e non so come... Ti sei ispirato praticamente, ecco, hai scritto un pezzo per Lori praticamente. Lei l'ha accettato subito. Sì, noi siamo... Tutte cose che sentiamo ce l'abbiamo di dentro, vero? Ho capito, certo. Bene, bene. Chiaro. Come nascono, Lori, le tue canzoni? Cioè, prendi spunto da qualcosa? È come un'altra persona, c'è in testa che sente qualcosa e io cammino ogni mattina e certe volte il mio cervello comincia di cantare e allora io... Ti segni, ti prendi nota? No, vengo direttamente a casa. Ah, subito. Cominci a suonare. Sì, perché la melodia ce l'hai in testa subito. Sì, allora. Adesso c'è il telefonino. Ah, certo. Una volta, c'erano i taccuini. La cassetta pure c'è lo scrivere con la penna. Una volta si usava quello. Sì, forse era meglio, non so se sei d'accordo. E quindi, quindi vai a casa e sviluppi tutta la canzone. Sì, ma certe volte le canzoni vengono prestissimo, altre volte più ci vuole più tempo. Certo. Tu hai parlato di melodia, un altro gruppo grande gruppo melodico, poi è diventato inglese d'adozione, erano i Bee Gees, che erano australiani, australiani. Sì, anche tutte le armonie. Le armonie, esattamente, gli incastri vocali meravigliosi di Bee Gees, soprattutto nei primi dischi. Dopo si sono un po' buttati sulla dance, sulla febbre del sabato sera, però all'inizio avevano fatto cose meravigliose. Ed erano australiani, assolutamente australiani. Ma lei è bravissima con harmonies, come si dice in harmonies? Le armonie. Sì. Le incastra bene, le Bee Gees and Eagles. Eagles è un altro, è un grande fan degli Eagles, è lì Agostino. Sì. Anche a me mi dice con questo nuovo CD di, canta questa linea. Okay. Anche su quella, la canto. Ho capito. Un'altra voce. Bene. Ascoltiamo ancora qualcosa di tuo, Lori, o vuoi riposarti? Facciamo ascoltare una canzone dal disco? No, facciamo ascoltare qualcosa di tuo ancora dal vivo. Allora, ti devo dedicare questa canzone. Wow. I'll be there. Ah, bene. Scusa, solamente per Ago. Solamente per me. Sì. Un grande onore. No. Tutti qui in studio e quelli che ascoltano. Posso dire un paio di parole in inglese? Certo. I know there are a few of my fans from Facebook who are tuning in tonight, so thank you very, very much. I'm going to sing a song live now called I'll Be There, especially for Argo, who invited me to his radio station. So thanks for listening, and there'll be 3 more new tracks coming along soon. Thank you. Che dire, io sono senza parole di questa dedica e Lori sei splendida, grazie di cuore, mi hai emozionato, adesso spengo anche la luce. Allora ci ascoltiamo uno dei capolavori di questo disco, almeno per quanto riguarda i miei gusti, insomma, di Lori Greco, si chiama I'll Be There. Anyway. ascoltandoti, Lori, mi vengono in mente delle parole che io leggevo anni fa, Gillo lo sa, e dicevano più o meno così: la tua grazia non fu mai superata da nessun'altra donna, e perché un uomo abbandoni ogni cosa basta il racconto della tua immensa bellezza. Grazie. Ti va grazie. Bene? Sì, bellissima. Bellissima canzone, io sono senza parole, le luci si sono spente. Come me. Davvero? Questo è davvero? Aspetto le luci. È verissimo. Poi c'ho due splendide ragazze qui vicino che ti stanno ascoltando, Martina e Elsa. Erika. Ciao. Quindi, Martina, Erika. Ti porto i saluti anche da parte di Santordano e dice: grande Lori, la Marilyn della musica. Brava. Grazie, grazie. Dice che sei fantastica. Grazie. Alla prossima, Santo, ci vediamo. Alla prossima. Perché mi ha domandato se potevo cantare al suo locale. Sì, alla prossima. Alla prossima. Ecco, vedi, cercavi un live da fare qui in Italia, sì. E poi andare da Santo a regalare un po' di musica della tua musica, della tua voce. Il tuo amore per Elton John, secondo me, nelle prime note del piano, primissime note del piano, ha qualche riferimento, primissime, poi chiaramente il brano lo sviluppi come vuoi te, però all'inizio c'è qualcosina legata ad Elton, secondo me. Perché? Così, nella, in the air, nell'aria, come si dice. Sì. Ma è una cosa positiva, mica una cosa negativa. Sì, no, è un complimento. Elton è grande, perché, sì, faceva le piano e bar, certamente ascoltava tutte le canzoni di Elton John, e copiava le note o ascoltava le... Perciò. Sì, i riferimenti. Cioè, piccoli riferimenti. Poi chiaramente tu sei autrice, hai sviluppato il pezzo da un piccolo segmento, l'hai sviluppato come volevi te. Sì. Una canzone importante è l'ottava traccia del disco, cioè quasi più, supera leggermente la metà, è importante. Quando uno mette un pezzo di un certo peso dopo la metà del disco, vuol dire che deve attirare l'attenzione dell'ascoltatore, sì, in una certa maniera. Sì, secondo me anche la scaletta non è fatta a caso, è fatta volutamente, tu l'hai fatta volutamente in questa posizione. Cosa dici? Sì, però è molto importante la Sicuro. Scaletta. Sì, cosa dici, Eric? Sei d'accordo anche tu? Sì, sì, come? D'accordo, sì. Benissimo. Ecco così. Mi stavi guardando. Lori, io so che tu sei reduce da una splendida tournée in America. Sì. Dove hai cantato una canzone al Festival della Musica Italiana. Sì. Come ci sei arrivato innanzitutto a questa manifestazione, a questo musical? Festival della canzone italiana. Devo ringraziare la rete, internet, per un amico di Facebook, ha fatto le notizie, ho detto posso entrare, e sì. Allora, ho scritto questa canzone che era... Ti dico, è la tredicesima canzone del mio prossimo CD. Ok. Io sempre parlavo con il mio produttore. No, non la voglio cantare, no, sono stufo, andiamo avanti con... Allora lui ha detto, no, la canzone è troppo bella, la dobbiamo fare. E poi dopo l'abbiamo registrato, ha detto, senti Lori, questa canzone la devo scrivere in italiano. E poi è venuta questa invitazione da New York. Tante cose, allora ho andato a cantare questa canzone a New York, ho venuto terza, è un grande onore, è la prima volta che ho cantato a New York, mai in miei sogni ho pensato che andavo a New York per cantare, questa è la canzone. Com'è stata l'esperienza lì a New York? Ah, fantastico, ti dico, avevo molto paura perché quando pensi New York, sai com'è, hanno un grande posto. La grande mela, sì. La grande mela. The Big Apple. Sì. The Big Apple. Sì. The Big Apple. Quando tu dici a qualcuno ho cantato a New York, è un grande onore. Certamente. Sì, ma noi... Eravamo scusate, sempre Barbara Streisand, we were, in ogni caso sì. È sempre lei che gira in ogni caso. Eravamo con gli italiani, sempre con gli italiani, la comunità era molto generosa, mi sembrava a casa, era fantastico. Abbiamo ospitato anche noi qui, sai, l'anno scorso, una vincitrice del Festival della Musica Italiana lì a New York, si chiama Elodea, che magari si sta ascoltando, la salutiamo, e anche lei era entusiasta della cosa che ha vissuto, insomma, di questi giorni, insomma, che ha passato lì a New York, è stata una cosa fantastica. Sì, un'esperienza bellissima. Maurizio, Non so perché sono arrivato in ritardo. Voglio chiederti, Lori, se avete già presentato nella scaletta il primo pezzo dell'album. Abbiamo parlato con Lori di far ascoltare solamente due canzoni, una dal vivo e una dal disco, perché lei vuole presentare il disco nuovo. Perfetto, perché a me è piaciuto molto il primo pezzo e ti spiego il perché. L'ho anche scritto, abbiamo scritto nella recensione. Perché è un pezzo molto americano, che si leggermente si allontana dal tuo genere, però si avvicina alla cantautorato stile al femminile americano. Io ho citato Sheryl Crow, che poteva essere un'altra cantautrice. Secondo me ti avvicini giustamente e bene a quel genere là. Cosa dici? È vero oppure no? Sì, mi piace l'americano. Take It or Leave It. Secondo me poteva essere un benissimo un singolo. Grazie. Per me quella canzone spiego tutto. Dimmi. Perché la gente dicono perché non scrivi le canzoni così. E ho detto, scusa, io posso scrivere solo quella che c'è dentro di me. Certo. E allora ho detto, take it or leave it. O ti piace o non ti piace. Fai quello che vuoi. È musicalmente molto vivace, molto accattivante. E ripeto, secondo il mio parere, potrebbe essere un bel singolo. Potrebbe, chiaramente l'album adesso è sorpassato e c'è quello nuovo. Sì. Però poteva essere un singolo che poteva lanciare l'album, perché è un pezzo decisamente piacevole. Sì, ha delle corde buone, secondo me. Ok. Ascoltiamo 30 secondi. Ascoltiamo un secondo. Singolo facciamo. Qua. Ascoltiamo 30 secondi. Veloce. Insomma, non l'abbiamo ancora detto. Che? Dove si può acquistare questo disco, Lori? Waiting, perché poi parleremo del prossimo. Sì, sì, la puoi scaricare da iTunes facilmente, o CD Baby, o anche se lo vuoi un po' più speciale. Confezionato meglio. Sì, che è autografato personalmente per te, con una fotografia anche, che io lo spedisco tu a casa. Ah, bene. Sì, puoi comprarlo dal mio sito. Mm-hmm. Eric diceva una cosa del pezzo, Eric. Diceva. Perché io non pensavo che questo pezzo era piaciuto a qua. Yeah, a me è piaciuto molto, sì, l'ho detto subito anche ad Agostino quando l'ho sentito. Perché io penso che gli italiani ci piacciono più le, come si dicono, ballads. Le canzoni un po' più lente, più melodiche. Più lente, melodici. Ecco. Però non è detto... Ma anche questa, secondo me, è ben attira abbastanza il pubblico, è piacevole, essere piacevole e non scadere in qualità, ma essere piacevole lo stesso è una cosa positiva, è un fatto positivo. Per quello a me è piaciuta immediatamente quando l'ho sentita, mi sono fermato, anche agli altri pezzi, ma questo mi sono fermato più degli altri, perché mi è piaciuta subito, come arrangiamento vivace, accattivante, fatta bene, sì. Poteva essere benissimo una canzone pop, come avevamo detto, microfono spento con Lori, è proprio una canzone pop al 100%. Speriamo che alla gente ci piace così si compra, eh? Sì. Indubbiamente. Anche un brano, sì, come no, come sì, no. Tutto aiuto. Quindi è un consiglio che vi do, che diamo anche noi di Blue Radio Veneto, insomma, di acquistare questo disco di Lori, per chi ama questo genere di musica, ovviamente, perché è veramente un gran bel disco. Io, secondo il mio punto di vista, potrebbe essere un gran bel regalo da fare al proprio fidanzato o fidanzata, insomma. Credo sia un bellissimo disco da regalare. Un'ottima idea. Senti, Lori, torniamo indietro con le parole e torniamo al Festival della Musica Italiana a New York. Lì hai presentato questa canzone che farà parte del prossimo disco, giusto? E che si chiama? The Chance Again. La vogliamo ascoltare, che dici? Sì. Poi magari ne parliamo. Sì, bene, grazie. Ok. Affanno con respiro. Radio. SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Lori, ti porto i saluti dalla provincia di Mantova. La Miria ti sta ascoltando, gli mandiamo un caro saluto. Sì, è in ascolto appunto da un paesino in provincia di Mantova. Ciao sì. Miriam, un bacione e un abbraccio. Sì, sì, ciao Miriam. Ciao Miriam. Allora, questa canzone ha partecipato al Festival della Musica Italiana. È stata la tua prima canzone in lingua italiana. La seconda. La seconda? Sì. L'altro traccio del disco, poi la sentiremo. Sì, questa è la canzone che il mio produttore ha detto: Lori, tu la devo scrivere in italiano, perché l'ho registrata in inglese prima di tutto. Farai nel disco, farai le due versioni, una in inglese? Sì, ci sono due versioni. Magari risulterà più bella quella in italiano o quella in inglese? Sono diverse. Sì. La base di musica è uguale, ma però perché io mi sento più comodo inglese. Sì. Quindi ti è un po' difficile cantare in italiano, pur essendo la tua patria natia, ti è un po' difficile cantare in italiano? Sì, è diverso, sì. Lo so fare, ma... Preferisci in inglese, insomma. Sì. Ma è difficile come metrica, Lori? Metrica, cioè difficile come linguaggio. L'italiano è molto difficile, sì. Dicono gli stranieri, a cantare in italiano è molto più facile un italiano che possa cantare in inglese. Sì, io non penso ogni secondo, riverte sempre la lingua australiana. Traduci, fai la traduzione simultanea praticamente. Per fare la traduzione dall'inglese in italiano. Certe volte è duro. È duro, vero? Specialmente con questa, la linea che è The Chance Again. Non si poteva fare. Dire The Chance Again, non avevo l'opportunità. Ancora. È troppo lunga. L'inglese è molto più veloce. Abbiamo usato inglese, certo. Facciamo come Pino Daniele, che lui usa napoletano, italiano, esatto. Arabo, tutto. Fa un po' di tutto lui, esattamente. Lui è uno grande, mi piace. Certo, ma quindi è stato anche difficile riarrangiare il pezzo in italiano, perché i tempi dell'inglese sono decisamente... Sì. Sì. Diversi rispetto a quelli di italiano. Perché il mio cervello è la scritta in inglese. Quello è il discorso. Non poteva scrivere un'altra storia. Però il produttore ha voluto in italiano, assolutamente. Sì. E lei era preoccupata perché diceva: ma questo fa senso in italiano? Sì, la gente la capiscono, ma che si fa? Così è. Proviamo. Sì. Belle esperienze. Allora, che esperienze hai fatto musicalmente qui in Italia, come live, diciamo? Come live? Solo un po' a Cagliari e qua, questa grandissima stazione. No, io... Quest'anno, ma gli altri anni, diciamo. Sì, l'anno prossimo spero di fare di più. Mm-hmm. Voglio fare... Ma quel video che hai girato in Sardegna, è bello quello lì, l'hai fatto lì perché ti piaceva la posizione? Sì, quello era... Devo essere un singolo, ma ancora non è ancora uscito praticamente. Va bene, Lori, parliamo di questo disco che hai già deciso il titolo. Innanzitutto è The Change Again, oppure è provvisorio anche il titolo? Questi del mio prossimo album. No Ordinary Girl, che significa... Non hai ancora deciso? No, che è una ragazza straordinaria. Perché quel titolo mi fa sentire più forte come una donna, capito? No? Mm-hmm. Perché Waiting mi fa aspettare. Certo. Volevo qualcosa più diretto. Più diretto. E quindi comunque resta questo il titolo del disco intero? No. No Ordinary Girl. Non avevo capito. No, questo è per te, solo per promozione. Che il prossimo CD devo essere con 13 canzoni. Quindi abbiamo un'esclusiva, Maurizio. Questa è la prima volta nel mondo che si ascolta questa canzone. Benissimo. Quindi via internet in Australia stasera ti hanno sentito, assolutamente. Sì. È notte fonda lì. Non importa, però c'è sempre qualcuno sveglio. Ma poi magari ti ascolteranno in podcast quando. Sì. Ah, io ne volevo approfittare per una piccola parentesi di ringraziarti per quella sera che mi hai telefonato alle 5 della notte a casa tua, hai telefonato qui in radio per farmi gli auguri, ti ricordi in agosto? Sì, sì, per me non è niente perché io mi sveglio sempre prima mattina. Sei mattiniera, insomma. Sì. Ma è il momento che magari ci metti al pianoforte e componi? Oh no, perché tutti dormono. Ah, dormono tutti. No, forse dopo cenato vado a suonare. Ah. Una televisione, un computer, io vado a suonare. È il momento migliore, insomma, la sì, sera. Sì, sì. Dal punto di vista ambientale, visto che l'Australia è un continente meraviglioso, ti ha influito nel senso positivo la forma, la costruzione dei pezzi, visto che l'Australia è un continente che ha questi grandi spazi, queste grandi estensioni? In verità, Maurizio, no. No, niente, peccato. Scusa. No. Aspetta. Ecco. Ti devo dire. Dimmi. Che il nostro governo ha incominciato una competizione, una gara per trovare una canzone per il governo australiano, praticamente. Sì. Ma la regione di Perth? Solo di Perth. Cioè il distretto vostro. Sì, sì. Okay, allora io ho scritto una canzone per il nostro paese. Era una gara, volevo vendere questi $10,000. E allora noi abbiamo andato alla presentazione e volevo ascoltare il mio nome. E ho detto, zio, Enrico, non abbiamo vinto niente. Allora mi è fatta arrabbiare. Ho andato a casa, l'ho riscritta la canzone, l'ho chiamata Australia, che si vede su YouTube se la vuoi vedere. L'ho messa anche una sera su Facebook. Grazie. E da lì le stazioni di radio hanno detto, ma hai qualcos'altro che possiamo ascoltare? Io ho detto no. Allora da lì è incominciato questo CD Waiting. Ah, ho capito. Perché io non sapevo che avevo dentro di me, ma perché uno ha fatto la richiesta, mi ha dato la ispirazione. Ispirazione per farlo. Sì. Sì. Che poi c'era un sacco di gente quella volta lì. Ah, oh, sì, 6.000 persone. Persone. Sì. Non sono poche, sono tante. No. Qui viaggiano sui 2.000 al massimo da queste parti, quindi avere 6.000 persone. Insomma. Eh sì, con quella canzone ho cantato anche al Port di Fremantle, che erano 30.000 persone. Notte di 40 gradi, madonna che caldo, ma però fantastico. Sudava sulla barca, la barca faceva così. Era bellissimo. Sì. Senti, vogliamo sudare anche noi qui in studio? Sì. Ci fai? Okay. Anzi, tu sudi più di noi, ovviamente, insomma, perché la tensione è tanta, immagino, mentre canti. Mm-hmm. Cosa ci fai sentire adesso? Posso fare un altro cover? Come vuoi tu, scegli tu, anche perché abbiamo deciso di far ascoltare queste tracce dal nuovo disco, quindi è giusto se vuoi fare qualche cover, a me sta bene. Se no, marito, sei pronto per fare No Ordinary Girl? La lasciamo per lui. Oh, ok. Allora, questa canzone è un altro che mi ha colpito, cantata da Adele e scritta da Bob Dylan, che si chiama Make You Feel My Love. Blu Radio Veneto. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Blue. go black and blue. I'd go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my Eric, parliamo di rock. Bob Dylan fatta Bob, da, si sente Bob Dylan, Bob Dylan fatta da Lori, sì, ecco. Sotto la supervisione di Adele, sì. Però sempre Bob Dylan, si sente. Poco da fare, sì. Quanto ti piace Adele? Mi piace, ma non sono pazza, impazzito con... sì, ma lei è brava, parla vicino al microfono, che... Lori. Sì, e lei è brava, con incredibile fortuna e... fortunatissima, sì, visto che è stata l'esplosione dell'anno, 12 milioni di copie ha venduto in tutto, sì, il mondo, sì. Una cosa incredibile. È il fatto che ha quella canzone Someone Like You, sì, quello ha trascinato tutto. Ma solo con un pianoforte. È vero, solo con pianoforte. Straordinario. Però vogliamo dire, Lori, che ha un manager, cioè una produzione di un certo livello, sì. Mm-hmm. Una grande produzione, è diventata la nuova Madonna, sì. Dicono, sì, anche sì, se sì. Ci sarebbe stata Lady Gaga, però insomma sono delle discussioni diverse, sì, però sì, Lady sì. Gaga è un altro tipo di musicalità, okay. Adele è brava, anche mm-hmm. il precedente, anche 21 era molto bello, 21 mm-hmm. ricordo, mm-hmm. Perdono, 19 il precedente, sì, era molto sì. bello anche qui. Sì, ma anche da giovane Madonna, che vita ha fatto. Ha fatto di tutto Madonna, sì, ha fatto di tutto, ha fatto proprio la musica, ha fatto proprio la tendenza Madonna, adesso mm-hmm. è stata molto criticata, però Madonna ha proprio fatto una tendenza musicale. Oh, sì. Sì, sì. Secondo me. Mm-hmm. Stiamo facendo grandi nomi, Lori. Se tu dovessi sceglierti tre cantanti, tre dischi da portarti in un'isola deserta, senza marito però, senza marito. Cosa ti porteresti? Allora, sempre Olita Adams. Mi piace Anita Baker. È una di Antonio Carlos Jobim. Ah, musica brasiliana allora. Sì. Come mai Antonio Carlos Jobim? No, mi piace la musica latino. Latinoamericana. Sì, molto relaxing, come si dice? Rilassante. Però hai citato Anita Baker, vedi che il rhythm and blues arriva, sì, sempre. Sì, non posso scappare. Eric ha confermato anche lui. Il rhythm and blues arriva sempre, quindi sì. Anita Baker è anche quello. Sì, sì, è brava anche lei. E invece Eric, tu senza Lori cosa ti porti? Lui rocchettaro, cioè Jimi Hendrix qua. Quindi. Va bene, io a me piace uno che si chiama Larry Carlton, che è un grandissimo chitarrista, sì, dell'America. Un altro è Eric Clapton, Michael Lander, tutti chitarrista. Ah, chitarrista però, Jimmy, Jimmy ha cominciato tutto. Sono perfettamente d'accordo. Da sì. Jimmy è iniziato tutto qua, sì, assolutamente tutto. Perché come suonava Jimmy non suona nessun altro. Esattamente. A me mi piace anche, per me il meglio del mondo sono certi agenti di colore. Ah, di colore. Specialmente le donne, come Anita Baker, certo. Olita, stiamo ascoltando in sottofondo, Aretha Franklin, certo. E la cosa prossima sono le canzoni napoletane. Quando sento una canzone napoletana, io sono di Messina, siciliano. Sì. Quando sento una canzone napoletana, vado dove mia moglie, ci do un bacio. Ho capito. I can't help, come si dice? Non posso. I can't help. Lo devo fare. Lo devo fare. Non trasporto praticamente. Sì, specialmente se lei mi parla napoletano, io sono perso. Perché riesce ancora, si ricorda, si ricorda tu del Napoli? No, non totalmente. Di Napoli no, no. Ma la lingua sì. La lingua sì. Sì. Ah, dice qualcosa in napoletano. Allora, tu non stivi qua. Ma però i genitori miei hanno parlato sempre in napoletano. Ah, ho capito. Lo so, parlare in napoletano con tutti quegli scombrasoli e parole che mi piacciono, è facile per me. A casa mia, mia mamma, io parlo inglese con la mamma, la mia mamma risponde in siciliano. La mia moglie parla in napoletano, ma non è capisce tutto. Insomma, non rinneghi quelli che sono le tue origini, insomma. Scusa? Non rinneghi quelle che sono le tue origini. No, anzi, no. Anzi, vogliamo trovare di nuovo. Non hai pensato di fare una canzone in napoletano, magari? Quella è un'altra cosa che è difficile a cantare. Sì, sì, lo devo fare. Insomma, il napoletano è una lingua che si usa musicalmente parlando molto spesso, cioè voglio dire, poi l'avete nell'anima, nel sangue, insomma, è fatto di cantare, dello spettacolo, della musica, della canzone, insomma, quindi sì. Io ho provato, ma non mi sento fare, è una cosa che devo fare. Potrebbe essere un'idea da mettere nel prossimo disco. Sì, magari sì. Chiami Pino Daniele, che ne so. Sì, ciao sì. Pino, come vai? Oh, sarebbe mica male. Lo amo a Pino. Sì. Ma arriva la musica italiana lì in Australia? Arriva sì, molta? Sì. Sì, sì, sì, c'è la stazione che suona, parlano solo in italiano. C'è la Ma Rai. Quali sono i cantanti italiani che si ascoltano di più lì? Pupo, Pino, Laura Pausini. Laura Pausini. Abbiamo la, la, si chiama Rete Italia. Sì. Mi sembra che viene del giorno è da Melbourne e di notte viene da Roma. Ah, ho capito. Ma sono questi qui. Quindi Rete Italia, quindi musica italiana. Sì, sì, esattamente. Sì. E anche di giorno è sentita più dell'anziana, loro ancora sentono Claudio Villa. Ah, queste cose sono ancora legate a questo. Sì, sì. Invece i giovani italiani cosa sentono? Pino? Laura, tutte queste cose qui. Ho capito, sì. Ho capito. Torniamo appunto alla musica italiana cantata da te, okay. Torniamo al disco che uscirà non si sa quando, e torniamo con questa canzone, la traccia 2 di questa demo, insomma, che si chiama Tu lo sai. Magari l'ascoltiamo e poi ne parliamo. Ok. Sentire che c'è nel tuo cuore, poi dalla tua bocca stringendomi forte fino a non sospir. Non voglio parlare, ma solo amare persa nel silenzio. Ormai noi siamo qui, due amanti perduti per strada. Oh, cominciamo da zero, perdonami. Tu sei l'acqua da bere, l'aria del mio respiro. Tu mi dai vita, nelle tue braccia io vivrò. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Eccoci qua, Maurizio, tutto tuo. Sì, parlavo prima con Eric mentre il pezzo andava. C'è stata una voglia di salto di qualità, vero Eric, col nuovo disco? Sì, influences nuovi con altri musicisti. Come, di peso, certamente. Sì, di peso. Uno, il batterista che è Steve Gadd. Un artista di grande fama, che è conosciuto da tutto il mondo. Certo. Lui ha suonato con Barbara Streisand, adesso va in tour con Eric Clapton, Steely Dan, con tutti quanti. Un vero famosissimo session musician, sì. Come se, di, sì, sì. Un turnista di grande fama, sì, del studio. Esattamente. E un altro che si chiama Ible Boreal Senior, che è un bassista. Ancora lui è suonato con Carly Simon, con tutti. Con tutti i grandi. Who else? Sassofonista Andy Schnitzer, che è da New York, bravissimo. Lui suona con Simon & Garfunkel, va in giro con tutti. Con tutti? Sì. E ci sono portati slightly, come si dice, un'altra direzione. Cioè, vi hanno portato in un'altra direzione. Come mai avete scelto questo, Eric? Abbiamo scelto questo perché noi avevamo un amico, non mi ricordo. Romeo Scaccia, che è un bravissimo pianista da Cagliari, classico, e lui ci ha fatto conoscere questi... Li ha introdotto all'ambiente. Ha introdotto, perché lui ha suonato con loro. Ah, ha suonato con tutti quanti allora. Così è successo. Ah, ho capito. E al Romeo l'abbiamo visto 2 giorni fa, madonna come suona lui. È bravo. Uno dei meglio pianista in Italia. Benissimo, allora, quindi la direzione è stata portata in questo, avete voluto giustamente fare il salto di qualità, come abbiamo detto, arrangiare in modo diverso, fare un disco più professionale, possiamo dire questo, Eric? World class, come si dice world class? Classe mondiale. Classe mondiale, esattamente. Ecco. Eric, ti porto i saluti a te perché è della stessa tua regione nativo, cioè Fabio Abate ci sta ascoltando da Catania. Oh. Ciao Fabio. È un cantautore bravissimo ed è un grande, grandissimo amico di Carmen Consoli. E quindi lo salutiamo caramente, io lo aspetto qui a braccia aperte quando si potrà averlo, insomma verrà a suonare e fare il live anche lui, insomma. E vi sta ascoltando, insomma, quindi sì, ciao grazie. Fabio, ciao. Un saluto dalla Sicilia catanese alla Sicilia messinese. Però la prossima anche lì. Sì. Allora, dove eravamo rimasti? Ah sì, a questa canzone, tu lo sai. La seconda canzone, o la prima, la seconda dei punti di vista, insomma, che tu hai scritto in italiano. Come mai? Come mai? Perché ho pensato, devo scrivere qualcosa in italiano, fammi provare. E così è nata. Sì, ho sentito questa parola, queste tre parole, tu lo sai, allora ok, la storia come devo andare è uscita. Che bello. Senti, sono le 22:20, io direi, se tu sei d'accordo, visto che non abbiamo poi tantissimo tempo, a meno che Renato ci sia, insomma, penso di sì, però Maurizio. Sì, penso di sì, dovrebbe arrivare il nostro esperto di metal. Di musica, esatto. Musica metallica. Metal, io, metal, hard metal. Io direi di far ascoltare anche la terza traccia di questa grande esclusiva mondiale che stiamo dando ai nostri ascoltatori. Di questo disco che sta nascendo, sì. Una creatura a cui ci tiene tanto, sì. Un altro bambino, una bambina. Sì, e questa canzone è più diversa, si chiama Runaway, un po' stile latino. Vediamo, ascoltiamo. Okay. Runaway e poi ne parliamo. Thank you. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Eccoci qua, siamo ai saluti, alla stretta finale, Lori. Hai visto che è passato velocissimamente, sì, quest'ora? Sì, parlami vicino al microfono, per cortesia. Sì. Allora, io non ti ho ancora chiesto, prima di salutarci, cosa ti piace dell'Italia? A parte le origini, ovviamente, insomma. Ah no, l'ambience, come si dice, l'atmosfera. Noi ci sentiamo più a casa, ma non lo voglio dire ai nostri amici australiani, perché veniamo dal nostro paese. E... il cuore è ancora italiano. Sì. No, pensavo mi dicessi la pasta. Sì, abbiamo messo un po' di peso. È sempre bello venire in Italia. Sì. Senti, Lori, io innanzitutto, prima di passare all'ultima canzone che ci canterai adesso, intanto volevo ringraziarti a nome di Blue Radio Veneto di essere venuto qui questa sera. Ci ha fatto un enorme piacere, un immenso piacere veramente, e ti invitiamo per il disco nuovo. Sì, grazie nuovamente. Sì, veniamo, non ti preoccupare. Non ti mi chiamavo prima a te. Grazie, sei un tesoro. Allora, un grazie di cuore a Lori e a Eric, ovviamente, che ha accompagnato lei. Però prima, insomma, diamo i tuoi dati, insomma, se qualcuno volesse acquistare il tuo disco, il tuo sito, le tue pagine Facebook, eccetera, eccetera. Sì, basta che ti ricorderei Lori Greco, facilmente, puoi andare su Google, ci sono alcuni posti, se vuoi acquistare la mia musica, iTunes, CD Baby o... mio sito, Lori. Lori, come Greco. Si chiama? L-O-R-I. Greco. Maurizio. Sì, ho visto che Erika ha la chitarra, e quindi è cosa molto interessante, molto importante. Lo accompagna Lori con la chitarra, vero, sì, Eric? Sì, in questo sì. pezzo. È un pezzo importante questo, è un pezzo, non dico che fa il traino del disco, però è un pezzo che ami particolarmente nel nuovo disco. Sì, è il titolo. È il title track, quindi il title track deve essere un pezzo importante in ogni caso. Quando uno intitola un pezzo con il titolo del disco, vuol dire che deve avere una certa forza, una certa importanza musicalmente parlando. È così. Sì, sì. Come l'hai creato questo pezzo? Come l'hai costruito? E questa è una canzone più di pop. E ho pensato dei ragazzi, perché le ragazze, scusa, che hanno bisogno di sentire che loro sono belle loro stesse, senza i ragazzi, senza pensare questo e questo, che noi siamo tutto speciale. Questo è il motivo di... Che belle parole. Grazie. Allora, noi vi salutiamo, vi lasciamo in compagnia dell'ultima canzone di Lori Greco, ma poi ci sarà l'hard rock di Renato Ferro, quindi non cambiate assolutamente canale. Per chi volesse ascoltare la musica un po' più dura, quindi un po' più, come dire, forte, c'è appunto il mio collega che si sta preparando. Io vi do l'appuntamento a giovedì della settimana prossima con tutt'altra cosa. Ti piacciono i musical, Lori? Sì, certamente. Ah sì, ho fatto anche il direttore dei musical. Ah sì? Sì. Non lo sapevo. Cosa? Di Pippin, di Send in the Clowns. Santa Claus. Aspetta, Send in the Clowns. Oh, adesso mi porta. The Pajama Game. I did the musical. Sì. A Little Night Music, quella di Stephen Sondheim. Ah, ok. Sì, sì, grazie. Sì, <scusate. ride> Mi sono dimenticata. Vabbè, comunque, giovedì della settimana prossima abbiamo Mary Poppins qui. Oh, beautiful. E poi la rassegna, proprio la seconda puntata della rassegna, sarà il sabato prossimo, appunto, al Polivalente di Albignasego, con lo spettacolo integrale, cioè Mary Poppins. Però noi avremo qui la compagnia giovedì per un'anteprima e intervisteremo questi personaggi. Bella musica. Bella musica. Ciao Lori, ciao Greg, ciao Eric. Ciao. E grazie ancora di cuore di essere venuti. Grazie, grazie a voi. A te, grazie a Padova. Grazie. No Ordinary Girl. Set up my hands. It's not the way I planned it. I thought. it's sways far to want. I'm not so argumentative, I know when I've lost you, it's true.